Ora 21, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Come vi sarete accorti, Allegro con Fuoco questa sera era in differita una registrazione. E quindi le trasmissioni adesso tornano in diretta con il sottoscritto, elettro dei controlli, in sede di prove tecniche di trasmissione per l'appunto. Uno spazio esistente dal ormai lontano 1992. Uno spazio che andrà avanti sino alle 22.30 e poi ci sarà 25 o'clock. Contatto telefonico 0649 1750, sito internet anche per lo streaming già frequentato, che è www.ondarossa.info per le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info. Gli affezionati sanno che domani ci sarà anche la possibilità del podcast e della playlist, rintracciabili sia sul sito della radio e sia sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder. Si saluta Maya Tania, qui da Roma, Maya della Sardegna, l'immancabile Raffaele Pezzella in quel di Napoli. E quindi andiamo ad iniziare subito riproponendo la parte finale, quindi anzi proponendo per la prima volta la parte finale della prima traccia dell'ultimo lavoro dei Deccan Dance, Dionysus, un album che pian pianino andremo ad analizzare e conoscere, un album dedicato al dio Dioniso, dio della fertilità, un album che è una sorta di omaggio alla forza e alla purezza della natura. Album dai connotati fortemente etnici per chi già lo conosce, un album che infatti ha spiazzato direi più di un appassionato, ma si sa che Deccan Dance, oltre all'aspetto gothic di tanto in tanto, andavano anche oltre e andavano a visitare e a proporre culture altre e quindi commistioni etniche. Salutiamo anche Maria D'Agostini, il buon Gianluca Becuzzi e Like Awake, sempre qui da Roma. E quindi, tornando al nostro Dionysus, ci ascoltiamo l'ultima parte dell'atto numero 1 dal nome Dance of the Bacchantes. Don't forget your keys. Your siamo gustati questa ultima parte dell'atto numero uno. Ricordo, questo album è diviso in due atti, due tracce abbastanza lunghe di circa 17 minuti la prima, 19 la seconda, e ogni traccia ha delle sottodivisioni. La prima divisa in tre parti, noi ci siamo ascoltati appunto l'ultima parte, la terza, questa Dance of the Bacchantes. Sotto la mia voce già sta iniziando l'atto numero 2, un atto numero 2 che andremo a conoscere meglio nelle prossime settimane. Parecchi strumenti etnici suonati in questo lavoro, e mi immagino anche una sezione live con orchestra relativa. Ricordiamo, per chi interessasse, i Deccan Dance saranno anche in tournée in Italia, a Milano, a fine maggio del 2019, una tournée europea che ovviamente vedrà questo album, ma anche le cose vecchie, anche migliori magari, di questo Dionysus. Da Firenze c'è il buon Antonio che abbracciamo a distanza, e noi si va avanti. Un altro grosso calibro che è uscito con un ottimo lavoro in questo 2018 è David Tibb dei suoi Current 93. Con molto piacere accogliamo con gusto e interesse questo The Light is Leaving Us All, un ultimo lavoro che esce per The Spheres, un'etichetta nuova che non conoscevo, un album uscito a ottobre di quest'anno. Le consuete ballate acustiche malinconiche, ma anche sprazzi di psichedelia, sperimentazione e rarefazione, quindi un album completo, un album bello. Un David Tibbet che già quest'anno ci aveva regalato la collaborazione con gli Zoo in Zoo 93, e quest'anno bissa anche con il suo album personale. E quindi ci ascoltiamo The Birds Are Sweetly Singing e The Policeman Is Dead. they come. The light is leaving us all. West Street, the shutters shut dark. The flowers flow and sing in the drift. The light is leaving us all. In the night, the cuckoos call to the light that is leaving us all. Far away, the red barn burns. Oh, Rose, you are dead, and around you the storm kicks her heels and sucks the light, which is leaving us now. And I hear the steps in the night, and I catch the beats of my heart. And the lantern is blinding, and bright burn the wedges in our eyes, and the light is leaving us all. On Long Lane, where we fall into the causeway, I heard the stars split open by the post, by the moon, by the chapel. Call the surgeon, but the surgeon is dead. Call the policeman is dead. And the moon is drunk, and the night nurse is sick. And the murderer's dead, the assembly is killing time. And the clock has slowed to sugar. By the way, have you heard? The light is leaving us all, so may I recall you. The light is leaving you now. Sly days, sleep and fly. Little villages drop down and sleep dull dreams full of milk. Curtains and observe and obey. She opens up her eyes and she knows your name. The light is leaving us all. We are marked and we are named. Beyond the bar where the young girl stumbles and falls, between her toes flowers grow, and on her eyes flowers die. From her womb the light is leaving her child. And gunshot and knife choke her neck and bury her in dead tree, or fall her to the floor. The light is leaving her all. Always and utterly, in the mud, her prints are ghost, and the candle burns in the floor. Oh, badness, sing on. The light is leaving us all. Over in the sun, the icebergs trip, and by the seashore, the children skip. Watch the maiden, watch the killer strong. And please read the first book, consider the form. the light is leaving us all. Le mezza classe di David Tibbet con i suoi Current 93 in questo The Light is Leaving Us All, con le consuete tracce in odore di neofolk come questa The Policeman is Dead, ma anche sprazzi di straniante psichedelia che arricchiscono questo album che ci restituisce un Tibbet direi in grande forma. Quest'anno sono usciti album di vecchi personaggi che calcano la scena da moltissimi anni in quest'area più o meno ampia del neofolk, Sol Invictus, Current 93 e per ultimo anche Death in June con Douglas Pearce, con Essence, dei tre forse l'album più debole, ma anche perché chiaramente queste sono mie opinioni personali e anche molto smentibili, forse quello che negli ultimi anni è il meno ispirato, proprio Death in June, che comunque ha ancora un'ottima voce, devo dire. Dunque, The Light is Leaving Us All, un album che anche questo ascolteremo la prossima settimana. Spring is coming. Abbiamo salutato Gianluca Becuzzi e quindi ce lo andiamo a godere nella sua opera The End, insieme a Massimo Olla, altra eminenza grigia della scena sperimentale italiana. Ormai sapete la rilettura integrale di The End, vecchio lavoro di Nico dei Velvet Underground, una rilettura efficacissima operata da Becuzzi e Olla. Questa sera tocca la traccia più lunga e probabilmente più nota dell'album, sto parlando di The End, chiaramente dei Doors, che fu rifatta da Nico e qui la rifanno a loro volta Becuzzi e Olla in maniera eccellente, quindi ce lo andiamo ad ascoltare. And free. desperately in need of some stranger's hand. In other great land, lost in aroma, wilderness of pain, waiting for the summer rain. Is danger on the edge of town? Ride the king's highway, babe. With sins inside the gold mine, ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. Thank you. son. Si rimane letteralmente a bocca aperta per la splendida interpretazione della voce, la grandissima voce di Gianluca Becuzzi, e l'arrangiamento in generale operato da lui e da Massimo Ollas, che salutiamo. Una splendida versione di The End, di Doors e anche di Nico dal suo album omonimo, qui che ci ha fornita in maniera ancora più oscura e dalla sua offerta introspezione. Un grande lavoro dunque questo The End, che ci ha tenuto compagnia per queste settimane, un album che mi sento caldamente di consigliare, una delle migliori uscite di questo 2018, devo dire. Questo, ricordiamo, era il finale dell'album, questa, diciamo, cover, questo rifacimento dell'inno della Germania, già che Nico era di origine appunto tedesca. Si saluta anche il medico della peste, che sta cullando il proprio figlio. Abbiamo scoperto che c'è anche un figlio, con prove tecniche di trasmissione, bontà sua. Ora ce ne andiamo in Libano, sfruttando la solita compilation che mandiamo da un po' di tempo, questo Lebanon Music Survey Anthology of Electroacoustic Lebanese Music, l'ennesima gemma ideata da Raffaele Pezzella, che appunto riguarda la scena libanese, diviso in due volumi, il primo uscito anche attraverso la label An Place Sounds, e questa seconda parte reperibile soltanto in maniera digitale. Allora, questa sera dunque ci andiamo ad ascoltare Two of the Dragon con Addiction to Heartache e poi Fadi Tabal, Music for Arcs and Diameters, due artisti che abbiamo anche apprezzato nel primo volume. Estrema rappresentazione di ciò che significa crossover tra cultura araba e arrangiamenti odierni, sperimentali, industriali, una grande traccia questa di Two of the Dragon, formati da Abed Kubeisi, che suona il bouzouk, un strumento presumo proprio libanese, e gli effetti. Ali Hout, percussioni persiane, arabe e effetti anche lui. Un grazie dunque a Raffaele Pezzella che ce li ha fatti conoscere, una grande interpretazione. Andiamo avanti ancora con un altro artista dalla medesima compilation, il già menzionato Fadi Tabal. Music for Arcs and Diameters. sono fatte già le 21:46 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Queste prove tecniche di trasmissione in onda ogni mercoledì sera dalle 21 sino alle 22:30. Ricordo il sito internet che è www.ondarossa.info, anche per il nostro streaming. Due aspetti abbastanza diversi dunque di questa compilation riguardante il Libano, curata e realizzata da Raffaele Pezzella. Questa anthology Electroacoustic Lebanese Music, questo era Fadi Tabal con studi in quel di Montreal in Canada, il ritorno a Beirut e la sua espressione musicale un po' tra l'ADM e l'ambient, come giustamente viene anche sottolineato da Antonio, che può anche ricordare certi aspetti della Warp Music, etichetta di Sheffield, dove appunto i Boards of Canada hanno inciso insieme ad Aphex Twin, Square Pusher, Outacre e tanti tanti altri. Un grande grazie Raffaele Pezzella, e un grazie anche a tutti gli appassionati che in questo momento sono connessi qui con Radio Onda Rossa e con questo spazio. Ringrazio tutti e noi andiamo avanti. Anche per oggi andiamo un po' a ricordare Peter Christofferson, scomparso nel novembre del 2010, e lo facciamo attraverso TG Now, un album del 2004. Questo è un album che sanciva il ritorno dopo la parentesi Coil, finiti dopo la morte di John Balance, e quindi Peter Christofferson raggiunse di nuovo Chris Carter, Così Fanni Tutti e Genesis Breyer Piorich. La traccia che lo va a concludere è quella che andremo ad ascoltare, How Do You Deal. Intanto salutiamo anche Anna, sempre qui da Roma.